Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Oggi finalmente è venerdì ed è tornato a trovarci il dottor Franco Confalonieri. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Si sente in forma? Sì. Allora, in formissima è anche Peter Bescapè, che lui è uno sportivo veramente a 5 stelle, che adesso è in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, sta cercando di diventare sportiva. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Allenarsi in estate. Piccoli trucchi per non perdere il ritmo. Anche Fido sente il caldo. La fiducia in te ti porta lontano. Volevamo dedicare la puntata di oggi a caldo, estate, attività sportiva, fatiche oppure non fatiche, perché e invece oggi a Milano il tempo è cambiato. Cosa facciamo? Manteniamo i nostri impegni perché sperando che torni il sole. Perché l'estate arriverà. Per alcuni l'idea delle ci sono le giornate più lunghe, siamo più tutti un pochino più di buon umore, perché la luce, lo sappiamo, influenza il nostro umore, c'è questa benedetta prova costume che può spingerci, quindi tante persone si decidono a iniziare a fare attività fisica o intensificano i loro allenamenti, ma c'è anche l'altro lato della medaglia, dottor Confalonieri. Eh sì, questo è un periodo un po' particolare, questa è una stagione di transizione e come diceva giustamente c'è gente che con l'estate, in funzione delle giornate più lunghe e della necessità di confrontarsi con il proprio corpo che non è più nascosto da molti vestiti ma va minimamente esibito, decide di fare più sport e quindi l'estate porta a fare più sport. Peraltro ci sono tanti magari appassionati, magari frequentatori delle palestre o comunque praticanti sportivi durante l'inverno e durante la primavera che col caldo perdono motivazione e riducono l'attività o addirittura la interrompono. Quindi vorrei fare un po' questa domanda. Ma sì, facciamola. Amo fare le domande ai nostri ascoltatori. L'importante è che si dia anche delle risposte. E noi poi daremo le risposte. Certo. Ma la prima domanda che facciamo è questa. Voi con l'estate, con il caldo, con la luce, aumentate la vostra quantità di sport o la diminuite? Cominciate a fare sport o lo abbandonate? Aspettiamo le vostre testimonianze per sapere qual è il partito di maggioranza e soprattutto le motivazioni per cui aumentate o diminuite la vostra quantità di esercizio fisico. Ma come non rispondere a un invito così ben fatto? Il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666. Accettiamo però anche le chiamate di chi continua a non allenarsi nonostante l'estate. Certo. Che rimane pigro tutto l'anno. Rimane pigro, magari cerchiamo di dare qualche stimolo in più anche a lui che parta proprio dalle caratteristiche specifiche di questa stagione. Quindi vi vogliamo tutti appassionatamente, sportivi amatoriali, sportivi dell'ultima ora o pigri proprio nell'animo. Messaggi 349-238-6666. Una mela al giorno. E loro non fanno attività fisica, attività sportiva, perché spesso si adattano al nostro passo, al nostro stile di vita, e però anche loro soffrono il caldo, lo soffriranno presto quando scoppierà la bella stagione. Parlo dei nostri amici a quattro zampe che vivono accanto a noi e di noi prendono le abitudini. In linea con noi abbiamo il dottor Mauro Cervia, medico veterinario di Milano e presidente dell'associazione Amo gli Animali. Buongiorno. Buongiorno dottor Cervia, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie. Dottore, allora, noi lo soffriamo il caldo, magari possiamo decidere se allenarci di più o di meno, non allenarci del tutto, ma anche i nostri cani, i nostri gatti soffrono il caldo. Vediamo dei cani con peli lunghissimi e la lingua penzoloni che tocca quasi per terra. Quali sono i consigli che possiamo dare ai... Ci sono i soliti consigli banali che ogni anno vengono dati. Sì, ma noi non vogliamo dare consigli banali, per questo ho invitato lei. Acqua fresca, in abbondanza, errore, mai in abbondanza, perché comunque non hanno limite nell'ingestione dell'acqua, quindi può creare anche dei problemi questa. Quindi l'acqua deve essere razionata, uno deve avere l'occhio, deve controllare quant'acqua beve il suo cane e regolarsi in quel senso. Poi, come dicevi tu, la lingua penzoloni. Allora, noi sudiamo, cioè noi disperdiamo il calore del nostro corpo attraverso il sudore. Il cane non suda, il gatto non suda. Sì. Ma il gatto riesce molto bene a equilibrare il calore del suo corpo rispetto all'ambiente esterno, il cane un po' meno. Come lo fa? Attraverso questa enorme lingua e cioè respirando, quindi in quel modo affannoso, con la bocca spalancata attraverso la lingua. Poi c'è un'altra cosa da dire, tu dicevi del pelo, come intervenire sul pelo, è giusto tagliare il pelo all'animale o non è giusto accorciarlo? Ma senti... Le scuole si dividono. Le scuole si dividono, le razze a pelo lungo in realtà sono razze che sono state, si sono create in zone montane, quindi in zone dove fa sempre freddo e fresco, portarle in città al mare è chiaro che soffrono il caldo, quindi per me, a mio avviso, è chiaro che ne hanno un beneficio, se il pelo viene tagliato ne hanno un beneficio. Una spuntatina. Ecco, esatto, ma soprattutto quando tu lo rimuovi il pelo in eccesso con un pettine, quindi aiuti questa muta in cui l'animale si spoglia del vestito invernale, quindi del sottopelo, e prende il vestito estivo, quindi il pelo diventa molto più rado. Poi c'è un altro consiglio che volevo darti. Allora, c'è un problema in città soprattutto, quando fa molto caldo, i cani vanno a passeggio, passeggiano sull'asfalto, l'asfalto diventa bollente, è come se noi camminassimo a piedi nudi sull'asfalto, quindi ci sono un sacco di animali che hanno irritazione del cuscinetto digitale, del polpastrello, del piede. Quindi che cosa fare? Quando torniamo a casa, pulite bene i piedi dei vostri cani, magari con una spugnetta con imbevuta di acqua fresca, così evitiamo che gli vengano delle irritazioni e soprattutto gli diamo un po' di beneficio. Poi un altro problema, domenica io sono andato al mare con il mio cane, c'è stato solo un giorno di bel tempo e lei si è messa a prendere il sole, come tutti i cani hanno il sole. Sì, cosa anche succede? La mia. Cosa la succede? Sera aveva le orecchie che erano bollenti, cioè le zone del corpo che non sono ricoperte di pelo, in un cane soprattutto della carnagione, chiamiamola chiara, come il mio, che ha il pelo bianco, si irritano e si possono ustionare per il sole. Ebbene, ci sono delle creme protettive solari, della Bayer, per esempio, proprio fatte apposta per gli animali, dove vengono messe nelle zone glabre del corpo, quindi all'interno dell'orecchio, sul naso, sul tartufo e sull'addome, no? Sì. E questa è una protezione, direi, utile, perché, per esempio, il mio povero cane che ho trascurato è tornato a casa la sera. Uno straccetto. E i gatti, invece? I gatti, almeno quelli di casa, quelli metropolitani, escono un poco. Poi ci sono i gattoni, quelli veri, Romeo, che sono tosti. Ma quali avvertenze, quali consigli? Senti, il gatto è molto più furbo del cane. Lo so. Cioè, lui si arrangia da solo, non ha bisogno dei nostri aiuti, dei nostri consigli. Quindi sta al sole quando deve stare al sole e all'ombra quando deve stare all'ombra. Di solito ha molto meno bisogno di noi il gatto. Certo, acqua fresca anche per lui, ma la crema solare per il gatto direi che è perfettamente inutile, anche perché il gatto è un animale talmente pulito che la prima cosa che fa, se gli mettiamo una crema sul corpo, la lecca via. Allora, io ricordo questa associazione molto bella del dottor Mauro Cervi, Amo gli animali, c'è un sito che potete visitare. Il dottor Mauro Cervi sarà nostro ospite, perché inizieremo insieme questa sorta di battaglia sull'abbandono. Dedicheremo una puntata intera con tanti ospiti. Intanto, se avete bisogno di scriverci, il nostro dottor Cervi è pronto a rispondervi. Consigli per una convivenza felice tra noi i nostri animali, essere benessere @radio24.it. Dottor Cervia, la lascio ai suoi pazientini. Grazie. Buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. Torniamo a parlare estate e attività sportiva. Dottor Confalonieri, facciamo un po' due puntualizzazioni sul caldo. Sì. Dunque, il caldo presenta alcuni aspetti favorevoli all'attività sportiva, di cui ci si dimentica spesso, e alcuni aspetti sfavorevoli. L'aspetto favorevole più importante è che indubbiamente rischiamo molto meno qualsiasi tipo di infortunio o di trauma muscolare, nel senso che col caldo, in un ambiente caldo, il nostro muscolo lavora meglio, il nostro corpo lavora meglio, quindi il rischio di incidenti è molto minore e possiamo ovviamente ridurre anche la fase di riscaldamento pre-attività. Il problema fondamentale del caldo è che noi con l'attività sportiva bruciamo calorie. Questo, bruciare calorie, cosa significa? Questo ci alluzza. Sì, ma cosa significa? Che produciamo calore. E quindi aumenta la nostra temperatura corporea. Col caldo ovviamente è molto più difficile contenere questo aumento di temperatura, perché è molto più difficile disperdere calore. Sì. Quindi c'è un problema che può essere il colpo di calore classico, nel senso che aumenta molto la temperatura, non riusciamo a disperderla e quindi andiamo di fronte a un colpo di calore vero, comunque ai prodromi di un colpo di calore. L'altro problema può essere il fatto che proprio per mantenere questa temperatura entro limiti accettabili sudiamo molto, quindi ci disidratiamo fortemente e quindi c'è la necessità di una reidratazione preventiva, proprio perché attraverso la sudorazione manteniamo la temperatura corporea corretta, ma perdiamo liquidi, rischiamo di perdere liquidi in eccesso. Quindi questi sono i due problemi fondamentali legati al caldo: un eccessivo aumento di temperatura corporea o un'eccessiva sudorazione. Quindi dobbiamo anche rivedere un po' il nostro stile alimentare, oltre che quello di allenamento. Dobbiamo imparare ad assecondare lo stimolo della sete, a far fronte a queste... Dovremmo stare attenti non tanto ad assecondare lo stimolo della sete, quanto a prevenire lo stimolo della sete, perché la sete è già un indicatore di allarme. Nel momento in cui ho sete significa che sono disidratato. Dovremmo bere poco in modo continuativo prevenendo questo, e va ovviamente un po' ridotto lo stile, modificato lo stile alimentare, stando attenti però, se ci alleniamo ancora in modo continuativo, a non ridurre troppo gli alimenti, perché comunque il consumo energetico rimane analogo. Allora magari uno d'inverno mangia più facilmente o più volentieri il piatto di pasto di riso a mezzogiorno, perché poi si allena nel tardo pomeriggio, d'estate fa caldo, mangia meno, lo sostituisce con un'insalata e poi si ritrova in deficit di energia quando si allena alle 5 alle 6 del pomeriggio. Per carità, e non dimenticatelo, se volete consigli su come correggere la vostra dieta, noi siamo pronti, lei è pronto. Sì, assolutamente. Intanto voglio leggere alcuni messaggi, tra cui... questo che mi fa sorridere: ho 50 anni, non faccio nessuna attività sportiva, in estate se possibile ne faccio a meno, stasera avrei una partita di basket contro mio figlio, che faccio, mi butto o ci resto? Si butta e magari ci resta, no? Ti voglio dire che si butti, poi vista l'età avrà la capacità di gestire il suo sforzo. L'unico consiglio è che magari arrivi al campo un pochettino prima e con la scusa di provare le scarpe, provare il tiro, provare può fare un po' un giro di campo della muscolatura, si faccia un bel riscaldamento, in modo che il momento che poi prevarrà l'istinto agonistico, magari il muscolo risponde un pochettino meglio. Ci scrive Mario da Brescia: sono un runner, corro 11 mesi all'anno, non quando fa troppo caldo. Vedo persone, e mi mette tra parentesi donne, correre adesso, da adesso, per abbattere la pancetta entro le ferie d'agosto, ma meglio essere costanti. Ci raccomanda Mario. Non ha tutti i torti. È vero, Mario. Perché ci sono proprio nel gli sportivi dell'ultima ora. Nel senso che qualsiasi cosa fatta in tempi brevi rischia di essere più dannosa che vantaggiosa. E in particolare, se noi abbiamo comunque la necessità adesso di perdere peso e di eliminare la pancetta in funzione della vacanza che arriva, forse sarebbe meglio concentrarsi su una modifica razionale e intelligente delle abitudini alimentari che non sull'esercizio fisico, perché sicuramente otteniamo un effetto più rapido attraverso un cambiamento della dieta. Dopodiché, ottenuto questo effetto rapido, lavoriamo. Nel momento in cui vogliamo stabilizzarlo, inseriamo l'allenamento, anche perché sennò sottoponiamo il nostro organismo nella sua globalità a tre stress differenti: la riduzione dell'apporto calorico con la dieta, che vengono un po' le gambe molli, l'inserimento a volte all'attività fisica a cui non eravamo abituati, secondo, quindi, stress fatica, e l'adattamento al cambio di clima e al caldo, terzo stress. Non è detto che sia positivo per il nostro organismo farsi carico contemporaneamente di questi tre stress. Quindi poco alla volta. Sì, poco alla volta, una prima cosa alla volta. Chiletto, in questo caso prima si butta giù il chilo, poi si lavora sul muscolo per stabilizzare la perdita di peso. Le piace. E per tonificare. Andiamo a Salerno, ci aspetta Rosario, buongiorno. Buongiorno, senta, io lo chiamo da Salerno, volevo chiedere un'informazione dettagliata al dottore. Sì. Io sono un appassionato di running, quasi tutti i giorni, a eccezione di un giorno a settimana, faccio running e mi alterno tra i 45 minuti e la mezz'ora, sì, cioè un'oretta e la mezz'ora. Cerco di recuperare i periodi di stanchezza andando comunque a fare running, però facendo una mezz'oretta. Poi volevo fare un'altra domanda, posso? Certo, Rosario. Perfetto. Allora volevo fare un'altra domanda. Mi capita a volte che qualche volta che non vado, perché impedimento del lavoro, che la mattina devo andare via presto perché sono un agente di commercio, mi capita che durante la giornata, alle prime ore della mattinata, mi sento gonfio. Poi dopo mi inizio a sgonfiare. Cosa che non mi capita quando vado a fare correre. L'anno. Perfetto. Un'ultima domanda e chiudo. curo un'alimentazione molto ricca di verdure e fibre. Sì. Non mangio per niente carne, eccezionalmente qualche volta un po' di pollo. Sì. Vorrei sapere dal dottore gentilmente se in tutto questo che faccio c'è stato. Insomma, grazie Rosario. Grazie a lei, buona giornata. A lei. Dottore. Ma è chiaro che se c'è l'abitudine a correre tutte le mattine, togliere la corsa è come essere abituati a prendere un certo farmaco tutte le mattine, una mattina non prenderlo e ci accorgiamo. Si crea un equilibrio a livello endocrino, a livello ormonale, comunque diverso, non necessariamente, non spesso associato a questa sensazione di gonfiore, però ci può stare e non me ne preoccuperei assolutamente. Rispetto invece alle abitudini alimentari, l'uomo è tutto sommato un animale onnivoro e quindi anche carnivoro, quindi un'alimentazione equilibrata avrebbe bisogno anche della carne, soprattutto se si fa sport, perché poi le proteine della carne sono fondamentali proprio per ricostruire il tessuto muscolare che viene rimodellato e utilizzato attraverso la pratica sportiva. Quindi io consiglierei al nostro amico almeno 3-4 volte alla settimana, 2-3 volte il pesce, una volta due il pollo, il tacchino, la carne di introdurla nella sua alimentazione. È sostituibile con un'alimentazione ricca di verdura, in particolare ricca di legumi, non tanto di fibre, però indubbiamente le proteine della carne hanno un valore diverso. La varietà. Io vorrei con lei, dottor Confalonieri, se mi accompagna, fare un salto in palestra. Perché ci sono persone che continuano ad andare in palestra, vuoi perché si trovano bene, vuoi perché hanno pagato l'abbonamento. Adesso tutte le palestre fanno abbonamenti annuali, non si può interrompere. E quindi questa è una buona indicazione. E allora abbiamo invitato il dottor Francesco Mazzanti, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottore in scienze motorie e specialista in rieducazione funzionale, per capire come in vista dell'estate, considerato che la temperatura esterna, non interna alle palestre perché hanno l'aria condizionata, si fa sentire, e come si può modificare l'allenamento in palestra in vista dell'estate, ma anche considerando che il tempo a nostra disposizione, le giornate più lunghe ci permettono anche di dedicarci a delle attività sportive all'aria aperta che magari in inverno non potevamo praticare. Dottore, le ho dato un compito difficile? Sì. No, assolutamente no. Va bene, cosa si può fare? Intanto bisogna dire che bisogna continuare l'attività fisica per tutto l'anno. Sì. Quindi evitare il cosiddetto elastico, riprendere l'attività durante i periodi, periodi estivi e poi lasciarla poi nei periodi invernali. In palestra, nel periodo estivo, comunque è consigliato un allenamento aerobico di resistenza. Questo vuol dire un allenamento su tapirulan, su ciclo ergometro o su ellittico, di una durata che va dai 40 ai 50 minuti, con un'intensità comunque bassa e moderata, in modo da non sovraccaricare troppo le articolazioni. E questo tipo di attività comunque dà la possibilità anche, in un secondo momento, comunque per delle persone che si avvicinano a un'attività fisica in questo periodo, a renderli pronti per semmai andare all'esterno. Certo, insomma, usare, dottor Confalonieri, la palestra per prepararci ad un'attività sportiva all'esterno. Ecco, questo è un consiglio molto utile, perché uno impara a gestire il proprio sforzo di corsa piuttosto che in bicicletta, in palestra seguito, e poi è in grado di fare uno sforzo adeguato all'esterno. Io volevo fare un'altra domanda. Come vedi invece l'integrazione di un allenamento all'aria aperta, di corsa piuttosto che la camminata in montagna, piuttosto che l'uscita in bicicletta, con un allenamento con i pesi in palestra, mirato magari non tanto all'incremento della massa quanto al riequilibrio muscolare, ad assorbire quei carichi che vengono fatti attraverso l'allenamento all'aria aperta? Assolutamente sì, comunque per chi vuole continuare un condizionamento con sovraccarichi è consigliabile un allenamento a circuito, dove vengono proposti vari esercizi con delle ripetizioni molto alte, dalle 25 alle 30 ripetizioni, però con un carico molto basso. Questo dà la possibilità di non sovraccaricare le articolazioni e prepararle poi ad un'attività anche all'aria aperta, come, faccio un esempio più banale, il tennis o ad esempio una partita di calcetto o il naturale jogging che si fa nei parchi o lungo le spiagge. Allora, io volevo rispondere, approfittando di Francesco Mazzanti, a un sms che dice: nuoto 2 o 3 volte alla settimana, aggiungere palestra, punto interrogativo, o aggiungere corsa? Nuotando già 2 volte a settimana, aggiungere palestra e corsa va bene, però mi carichi giusti, nel senso la corsa andrebbe intervallata nella seduta centrale. Ad esempio, faccio un esempio di settimana, di tipologia di settimana. Sì. Se il martedì si nuota, magari martedì e sabato si nuota, in mezzo alla settimana, verso il mercoledì, giovedì, fare una corsa. Sì, una corsetta. Che però è una corsa defaticante. Se l'attività in vasca, nel nuoto, è stata abbastanza intensa, usare la corsa come un defaticamento. Oppure si può fare il contrario, dottor Confalonieri. Sì, correre un po' blandamente, sì, e poi cioè un po' più veloce e nuotare un po' blandamente. Oppure inizialmente integrare la piscina che già fa esclusivamente con la palestra, così alterna un'attività di tipo aerobico e di resistenza con un'attività di tipo isotonico più mirata al rafforzamento e alla tonificazione muscolare. Poi, una volta introdotta la palestra, può eventualmente più avanti introdurre la corsa, e a quel punto un programma d'allenamento anche importante e significativo che prevede un po' di esercizio tutta la settimana. Allora, ringrazio il dottor Mazzanti per essere stato con noi, buona grazie giornata per, anche per i suoi consigli. Abbiamo Luanda Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Eccoci, siamo tornati, abbiamo Luan che ci aspetta da Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa. Ci racconti. Niente, io volevo fare opposto alle domande che fanno gli altri. In effetti io perdo un sacco di chili non volendo poi alla fine. Allora, ero 104 chili, poi andando magari in piscina 3 volte alla settimana. Sì. Poi ho cominciato a fare un po' di corsa e poi quando ho tempo anche con la bicicletta è successo che, diciamo, in poco tempo ho perso una decina di chili. Mi sono accorto poi alla fine che i pantaloni dell'estate prima non ci stavano. Che deve cambiare il guardaroba, ma la sua salute ci guadagna. Senz'altro, questo di sicuro. Il portafoglio no, la salute sì. Riguarda la salute, senz'altro. Poi è successo che in poche parole mi sono impaurito, perché chi mi guardava mi diceva: Dio buono, ma che stai male? Perché non è che mi diceva: guarda, sei dimagrito, stai bene. Che è successo? Perché in effetti da 104 kg ora sono 80 kg. Poi mi sono entrato nel giro di fare un sacco di analisi, perché in effetti era un dimagrimento proprio. Poi non voluto. Senso, magari qualche chilo mi poteva star bene. Comunque, però, con il caldo, in previsione dell'estate, lei cosa pensa di fare? Di continuare o di rallentare un po' il passo? Ma il fatto è questo, che a me la piscina ormai è diventato un hobby talmente bello, perché io vado volentieri, perché anche se vado e sono stanco, mi rilasso. Vede, quindi, lei ha trovato la chiave. Dottor Confalonieri, Luan le dà grandi soddisfazioni, perché lei è un sostenitore del nuoto. Sì, assolutamente, soprattutto per un soggetto in sovrappeso importante come il nostro ascoltatore. Io credo che le analisi fossero tutto a posto, poi non ce l'ha detto. Comunque, se così era, ci sta che abbia perso anche questi 20-25 kg introducendo l'attività fisica in modo continuativo e non modificando le sue abitudini alimentari. È evidente che c'era un apporto di calorie inferiore a quello che era il consumo. A questo punto bisognerebbe stabilizzare, quindi mantenere l'attività fisica perché gli dà piacere, perché gli fa bene, incrementando l'apporto calorico, quindi strutturare una dieta che gli consenta di introdurre tutto ciò che poi consuma con lo sport. Però al suo posto non mi preoccuperei assolutamente. Vado in palestra tutto l'anno, non io, un sms. Scio intensamente d'inverno e passeggio in montagna in estate. Con il caldo non riesco a mantenere i pesi invernali in palestra. Sì, direi che è una situazione comune, credo, a molti. Non ci sono problemi se non va in palestra in estate, perché comunque fa l'attività. L'unico consiglio che mi sento di dare a questo ascoltatore è magari di integrare le passeggiate con un'attività che impegni anche la parte superiore del corpo, il nuoto, il canottaggio, il tennis, in modo da mantenere un equilibrio negli stimoli allenanti senza necessariamente dover andare in palestra. Anna ci chiama da Torino, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, io volevo farle una domanda perché ho dei dubbi. Io ho un nipote che fa dei pesi, ma ha 18 anni. Sì. Lui in precedenza andava anche in palestra, poi adesso li fa a casa, li ha comprati a casa dopo la scuola. E volevo chiedere se è corretto fare un'attività del genere. Grazie Anna. Dottor Confalonieri, la palestra arriva a casa. Ma i pesi dai 15-16 anni in avanti è corretto farli, bisogna imparare bene la tecnica e bisogna farli in modo adeguato. Quindi se li facessi in palestra non avrei nessun dubbio. A casa il problema è che si possono eseguire scorrettamente dal punto di vista tecnico e quindi con un sovraccarico a livello del tronco o a livello articolare pericoloso. Quindi soprattutto un ragazzo così giovane direi va bene fare i pesi, ma li faccio ancora in palestra seguito da qualcuno che oltretutto c'è una dimensione di divertimento, aggregativa, socializzante, che a quell'età è importante. Cioè l'idea di un ragazzo che a 18 anni si mette da solo in casa a fare i pesi non mi piace tantissimo, né da un punto di vista relazionale né da un punto di vista proprio dell'allenamento e biologico. Allora, tra gli effetti del caldo c'è sicuramente quello sulla pressione e quindi in fondo su tutto il funzionamento del nostro apparato cardiovascolare. In linea con noi abbiamo la professoressa Maria Grazia Modena, pronta a darci una mano, direttore dell'Istituto di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena. Professoressa, sono contenta. Buongiorno, grazie, bentornata. Nicole. Buongiorno, grazie. Allora, io direi di iniziare da chi ha la pressione bassa e in questo tempo continua o inizia a fare attività sportiva. Un consiglio, una controindicazione, professoressa Modena? Che la pressione è estremamente bassa, forse è meglio che si astenga in occasione del grande caldo. Ma se così non bassa non è, o se è bassa e vuole fare attività fisica, in questo caso conviene implementare con dei cibi salati. Sembra un assurdo, questo è controindicato nell'iperteso, ma chi ha la pressione bassa, dopo aver fatto attività fisica perché è meglio non mangiare prima, conviene fare un pasto salato, basta anche del prosciutto crudo. E poi i soliti integratori come il potassio, che si trovano in prodotti farmaceutici, ma anche molto più semplicemente nella frutta di stagione come albicocche, pesche e le solite banane. Ma e le solite banane, che sono molto utilizzate dagli sportivi, vero dottor Confalonieri? Sì, sì, perché garantiscono un buon apporto calorico e una buona reintegrazione di quei sali che si perdono specificamente durante l'esercizio fisico. Professoressa Modena, andrei alle persone, sono tante, che invece essendo ipertese ricorrono ad una terapia, quindi la o le pastigliette per la pressione. Ci sono delle indicazioni precise per gli ipertesi trattati e l'attività fisica in estate, quindi con il caldo? Direi assolutamente no, perché la pressione alta, oltre che con i farmaci che sono indispensabili, si cura con l'attività fisica. Sappiamo che il caldo abbassa la pressione perché dilata i nostri vasi, perché il mio consiglio è di continuarla, anzi non ricorrere a quello che tante persone fanno, ossia di dimezzarsi il farmaco o i farmaci, sì, anche spesso di propria iniziativa, quando è estate. Se uno non si sente stanco, in questo caso avrà magari una conferma e una pressione particolarmente bassa, continuare la terapia e fare attività fisica ovviamente nelle ore più giuste della giornata, non alle 2, certo, prima mattinata e normalmente. Lì il buon senso aiuta. Per chi ha avuto problemi di cuore, un infarto? La solita indicazione è che il grande caldo abbatte perché abbassa la pressione, ma io sostengo che l'attività fisica faccia molto bene al cuore, sia sano che colpito da qualsiasi malattia. Attività fisica costante, moderata, come il camminare rapidamente o il correre, non c'è nessuna differenza, 20-30 minuti al giorno, fa bene al cuore perché abbassa la pressione, abbassa la glicemia, attenzione che quindi previene addirittura il diabete, migliora il colesterolo, sì, e soprattutto dà anche un buon umore perché fa rilasciare nel nostro cervello le endorfine, che sono gli ormoni del buon umore, per cui aiuta in modo globale noi stessi e il nostro apparato cardiovascolare. Professoressa Modena, grazie per essere state con noi. Allora andiamo di attività fisica per gli ipertesi, per gli ipotesi, per chi ha avuto problemi di cuore e comunque sempre un farmaco, un tocca sana. Grazie professoressa, ci sentiamo presto, buona giornata. Grazie a voi anche. Allora, nell'attesa che il dottor Confalonieri si ripigli, perché è stato veramente preso da un colpo di tosse, come va? Ma abbastanza perché, bene. Perché qua di interventi possiamo farne. Andiamo a sentire che cosa ci racconta Luigi da Napoli. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, ascolti, io facevo fino a poco tempo fa 2000 metri di nuoto tre volte a settimana. Ho sostituito il nuoto con il tappeto, faccio 10 km poco più di un'ora sul tappeto per tre volte a settimana. Volevo sapere dal dottore se vado bene così o se è preferibile correre all'aria aperta piuttosto che sul tappeto. Senta, ma Luigi, ma lei questo schema pensa di mantenerlo anche così? Il dottor Confalonieri prende fiato, la domanda non è molto intelligente, ma intanto per prendere tempo pensa di di continuarla anche adesso che anche a Napoli farà caldo sicuramente. Io riesco a gestire bene tre volte a settimana e correre quindi 10 km Bravo. Sul tappeto. Allora, nel frattempo il nostro dottor Confalonieri si è rianimato. Sì. Eccolo. No, direi che la scelta è sicuramente corretta. Il tappeto sostituisce l'attività in piscina, è più specifica, è un po' più impegnativa. Magari io alternerei due volte alla settimana il tappeto in casa per mezz'ora, 45 minuti e una volta un'uscita un po' più lunga all'aperto che consente di modificare il carico allenante e dà anche quella varietà d'allenamento che riduce la noia e il rischio di doverlo interrompere. Tra poco parliamo bene di dieta? Va bene. Prima di continuare a muoverci in previsione dell'estate, a muoverci con il caldo, leggiamo il nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, oggi potete ricevere a casa il libro 100 risposte sul mal di testa. Per riceverla a casa dovete però essere il primo ascoltatore e inviare un'email a esserebenessere@radio24.it, titolo del libro, recapiti e numero di telefono. E di mal di testa, vi anticipo, parleremo proprio lunedì per aiutarvi a capire di che tipo di mal di testa soffrite. Quindi se siete interessati, appuntamento a lunedì. In collaborazione con IBS.it. Andiamo a Siena, ci aspetta Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io se possibile avrei bisogno di fare due domande. Proviamo allora, Riccardo. Aspetta, la prima è, io faccio sport tutti i giorni, la mattina presto, perché per lavoro alle 5:30 comincio a fare sport e poi per tutta la giornata vado al lavoro. Sì. E intervallo 3 giorni di panca in casa o 3 giorni di corsa, sì. Un'oretta di corsa. Vuoi sapere se farlo presto così è dannoso e costruttivo, se serve. Ma Riccardo, lei come si sente? Io mi sento bene. La seconda domanda? La seconda domanda è, fra una settimana vado al mare e sostituirò i 3 giorni di palestra con 3 giorni di, cioè con una mezz'ora di nuoto al giorno, farò un'ora di corsa in mare. Riccardo si fa una settimana di vacanza e questo ci fa venire un po' di invidia, però rispondiamo, gli va? La merita questa settimana di vacanza perché il suo allenamento è impostato assolutamente bene, anzi ci dà l'occasione per dare un consiglio generale: l'orario migliore per allenarsi d'estate è proprio la mattina presto, anche in funzione della temperatura. L'unica avvertenza è una cena adeguata il giorno prima, quindi con un discreto carico proteico che vada a ricostruire il nostro tessuto muscolare, e magari una piccola ricarica al mattino, 2 fette biscottate col miele o con la marmellata, una piccola fettina di crostata. Brava. 6-8 biscotti secchi, diamo anche questa variante, in modo che si stabilizzi la glicemia durante l'allenamento. Questi sono consigli alimentari che valgono un po' per tutti, dato che avevamo anticipato. Ma valgono che avremo... soprattutto se ci si allena la mattina presto. In linea generale direi, d'estate si tende a ridurre i carboidrati, perché se ha un po' meno fame la cosa va bene, magari ci consente anche di dimagrire un po'. Io consiglierei, nei giorni in cui è previsto l'allenamento, nel tardo pomeriggio alla sera, manteniamo i carboidrati, quindi il piatto di pasta o il piatto di riso a mezzogiorno, perché saranno le energie che bruceremo durante l'allenamento. Viceversa, quando non dobbiamo allenarci, magari sostituiamo i carboidrati con una bella insalata mista, magari con un po' di pesce azzurro, un po' di acciuga, per dargli un minimo di sapore, e in questo modo riusciremo a mangiare in modo adeguato e magari anche a perdere qualche chilo. Angelo ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Pronto? Sì, noi ci siamo, Angelo. Può fare la sua domanda, la sento benissimo. Io volevo dare una risposta al dottore che diceva se l'attività fisica con la bella stagione veniva incrementata oppure diminuita. Sì. Ecco. E volevo dire che io giocando a golf, con la bella stagione sono portato naturalmente Caspita, certo, ad aumentare. Ecco. Però volevo fare invece una domanda per quanto riguarda la pressione. Cioè io alcuni anni fa ho scoperto di avere una pressione minima un po' alta che andava mediamente verso i 90 e 95 e a volte avevo... Sì, quindi la minima alta. Allora, Angelo? Allora il mio medico di famiglia mi ha consigliato di fare delle... diciamo, di prendere delle pasticche. Sì. Non so se posso dire la marca. Ma delle Angelo, qua siamo più sull'attività sportiva. La professoressa Modena ha detto che l'attività fisica è assolutamente raccomandata sia per l'ipertesi in terapia, sia per l'ipotesi, sia per chi ha problemi di cuore. Penso che il dottor Confalonieri possa aggiungere. In particolare il golf è uno sport assolutamente adatto perché consente di diminuire la pressione senza sovraccaricare il cuore, quindi senza creare problemi a livello di minima. Allora, dottor Confalonieri, noi ci vediamo al prossimo venerdì. Senz'altro. Ancora un po' postumi della sua influenzina, però possiamo darle dei consigli. Ascolti anche lei, essere benessere. Senz'altro. Intanto ci prepariamo per un prossimo tema. Forse parleremo di nuoto. Ma sì, dai, restiamo in tema. Fatecelo sapere se la cosa vi può interessare. Nuoto, acqua gym, insomma, attività sportiva in acqua. Volete scrivercelo, anticiparlo, esserebenessere@radio24.it. Dottor Confalonieri, grazie. Grazie a voi, a risentirci. E ora, prima di salutarci, una pillola di saggezza per continuare la giornata in modo positivo. Ci aiuta la dottoressa Maria Caterina Cappurro, autrice di un libro di cui vi ho già parlato, Il potere della routine. Dottoressa Cappurro, bentornata. Buongiorno. Dottoressa, tutti noi ogni giorno ci troviamo di fronte a sfide di varia natura e a volte questo ci mette un po' in difficoltà. In realtà, però, come lei sostiene nel suo libro, noi siamo assolutamente in grado di affrontare le prove quotidiane perché la routine ci allena. Capito questo? Insomma, siamo a cavallo. Ma questa è la teoria. Per passare alla pratica, chiedo un aiuto a lei. Voglio aprire con una frase centrale, con una citazione centrale a tutto il libro, di Nelson Boswell. Cioè, il primo e più importante passo verso il successo è sentire che è possibile. Questo è veramente un punto fondamentale di tutto il libro, perché in realtà tutto ciò che facciamo e soprattutto come lo facciamo è collegato al nostro stato, è influenzato dal nostro stato, perché molte persone veramente, pur attente alla loro preparazione, trascurano questo collegamento e trascurare questo collegamento alla fine pregiudica o rischia di pregiudicare l'esito finale. Quindi il punto in realtà non è vincere sempre, piuttosto è mettersi nelle condizioni di dare il meglio di sé, di esprimersi al meglio delle proprie capacità di performance quando è il momento giusto. Per fare questo, cioè per mettersi in grado di esprimersi al meglio e dare il massimo, è necessario accedere a stati che lo favoriscano. Questo vale sia per obiettivi professionali, come ci siamo detti l'altra volta, quindi un colloquio di lavoro, una vendita, una presentazione, un esame, chi più ne ha più ne metta, e anche personali, vorrei aggiungere oggi, perché ci sono per esempio routine di coppia e di famiglia che possono favorire l'unione, l'affiancamento, la condivisione. Il punto vero di tutto è che se noi non predisponiamo una routine utile, potremmo al contrario inconsapevolmente usarne un'altra che non ci favorisce affatto. Quindi voglio lasciare agli ascoltatori due domande base. Qual è la mia destinazione? Una volta chiarito questo, quali risorse mi servono per arrivarci? E ogni attività avrà le sue, potrà essere concentrazione, motivazione, energia, grinta, rilassamento. Il punto è tirarle fuori al momento giusto. Quali pensieri, quali parole, quali azioni mi fanno entrare in questo stato? E a quel punto costruire la propria routine per predisporci a vincere. Dottoressa, io voglio leggere una frase che mi ha colpito, che ho letto proprio nel suo libro, è una frase di un anonimo che dice: ciò che ci separa dal successo è la nostra spinta interiore. Penso che anche questa frase riassuma un po' il concetto che lei ci ha espresso. Esattamente, proprio la frase che veramente sintetizza tutto quello che ho detto finora. Siamo noi da dentro che possiamo metterci nelle condizioni di arrivare dove vogliamo. Dottoressa Capurro, io la ringrazio per essere stata con noi, per questo consiglio che ci fa prendere il passo giusto. La saluto, le auguro una buona giornata. Grazie, grazie a voi. E buona giornata a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è per domani a mezzogiorno con Questa casa non è un albergo, mentre torneremo a parlare di salute come sempre lunedì dopo il GR delle 11. Vi aspetto, buona giornata. Essere e benessere.